si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento il sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra attualità, le buone notizie, le nuove tendenze, quelle che ci salveranno, noi almeno diciamo sempre così. Subito i contatti, si può fare. Radio 24 su Facebook, veniteci a trovare, mandateci tante belle iniziative, tante buone notizie e, come facciamo ogni settimana, più o meno le più belle le raccontiamo, insomma le mandiamo in onda. E poi anche su Twitter si può fare 24. Non dimenticate durante la settimana la segreteria telefonica all'828 12 12 per lasciare le vostre buone ricette per salvare l'Italia, possibilmente in un minuto. Ma iniziamo subito con alcune notizie della settimana. Andiamo in Sicilia. Questa storia qua l'avevamo seguita tempo fa ed è la storia dell'ecomostro Scala dei Turchi a Realmonte in provincia di Agrigento. Ebbene, pare che siamo arrivati al dunque. Lo abbatteranno. È stato aperto il cantiere per abbattere questo coso qua, che se andate a vedere anche le immagini su internet le vedete, è una cosa terribile, è uno scheletro di cemento in una costa bellissima che deve diventare patrimonio dell'UNESCO. E allora non è ancora iniziato i lavori proprio in senso stretto, perché sapete in Italia ci vogliono mesi, anni per fare anche le cose buone, anzi soprattutto quelle buone ci vuole più tempo, però è stato aperto il cantiere, quindi tra qualche giorno speriamo comincerà a venir giù l'ecomostro in Scala dei Turchi. Una buonissima notizia, ci vorrebbe una applauso collettivo dal nord al sud. D'altra parte, insomma, che l'Italia debba farlo questo lavoro, no? Di ripulirsi dalle brutture per favorire il turismo, ma anche per mettere in sicurezza il territorio, diciamo sempre. Bisogna cominciare a farlo, l'ha detto qualche giorno fa anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Non possiamo più rinviare il piano contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza sismica. Dagli anni Ottanta subiamo danni da eventi calamitosi quantificabili in 3 miliardi e mezzo all'anno. Ora, non dico che dipende dall'ecomostro, no? Se ogni volta che piovono due gocce d'acqua succede un casino da tutte le parti, però dipende sicuramente anche dalla cementificazione. Allora, bisognerebbe farlo davvero questo piano contro, insomma, per recuperare il territorio italiano. Un'altra buona notizia arriva da Milano, anche se con un punto interrogativo. Nasce, primo comune in Italia, un ufficio che farà la lotta dura al riciclaggio del denaro sporco. Sapete che, insomma, l'infiltrazione della mafia al nord ormai è più che una realtà. Il comune di Milano si dota di un ufficio. Ora, non è difficile capire da questa notizia se si tratta dell'ennesimo baraccone per mettere a stipendio qualche altro dipendente pubblico, oppure se di una cosa utile, perché sappiamo che, insomma, la questione del riciclaggio, il denaro sporco va contrastata, perché le mafie sono sempre lì che in agguato. D'altra parte basterebbe fare come dice Milena Gabbanelli, cioè di eliminare il contante il più possibile, pagare tutto con denaro elettronico e sarebbe bella e finita. Sapete che da questi microfoni raccontiamo sempre le buone notizie sulla sostenibilità, la mobilità nuova, la bicicletta. Da Bologna arriva un sistema di bike sharing privato, e questa è la novità, perché il bike sharing in molte città ormai è una realtà, biciclette che si prendono in affitto. Questa volta vale anche per i privati, è un'idea messa a punto dallo studio Snark, un gruppo di creativi milanesi. A Milano e a Bologna si sperimenterà nei prossimi mesi come funziona. Compri questo microchip, lo applichi alla bicicletta, la bicicletta la metti a una rastelliera, chi è interessato ad usarlo paga un quid, un pochino, per l'uso quotidiano o quello che è, e quindi un sistema che potrebbe anche così incrementare l'economia e favorire l'uso della bici, che è il mezzo più sostenibile che c'è per la città, ricordiamolo sempre. E adesso andiamo a iniziare, non prima di farvi sentire uno dei messaggi che ci sono arrivati, anzi due, questa settimana in segreteria telefonica. Ricette per salvare l'Italia in un minuto, contrastanti, sentiamo. La mia ricetta è soltanto questa, praticamente per quanto riguarda la salvezza di questo paese. Dobbiamo essere noi italiani a salvare l'Italia, a eleggere le persone giuste, perché siamo noi che portiamo alle elezioni, appunto, i personaggi della politica. Dipende soltanto dagli italiani. È inutile che ci lamentiamo e non facciamo altro che lamentarci, perché la colpa è degli italiani se questo paese sta completamente calento per terra. Per salvare l'Italia dovremmo fare una cosa molto drastica, radicale: mandare a casa tutti. farci venire 10 commissari, non dalla Germania, che è troppo assurdo come paese, ma dalla Finlandia, e di quelli che fanno le cose come devono essere andate fatte. E questi cominceranno a tagliare sprechi, sperperi e tutto quello che abbiamo buttato via in 50 anni, e solamente così, tagliando gli sprechi, il paese può ritornare a produrre, a lavorare e a pagare il debito pubblico. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande. Oh, la notizia è questa qua, c'è un boom secondo la Coldiretti, naturalmente avete capito che stiamo parlando di cose da mangiare, del fai da te alimentare, cioè gli italiani spendono sempre di più in ingredienti di base per cucinare a casa e sempre meno per prodotti artefatti, confezionati, industriali e forse anche per andare a cena fuori, non lo so. È una delle varie crepe e increspature della crisi, però insomma può darsi che una volta tanto la crisi faccia bene anche alla salute. Ne parliamo con uno che di cucina se ne intende, Spiros Theodoridis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vincitore del primo MasterChef Italia e insomma autore di programmi in TV, tra l'altro uno debutta tra pochi giorni su Dea Kids, è la prosecuzione, esatto, di Help Kitchen. Come si chiama il programma, Spiros? Parti con Spiros, perché sì, tu aiuti dei ragazzini insomma a cucinare a tema per un party, no? Esatto, insomma delle ricette molto molto semplici che anche loro li possono fare tranquillamente a casa per invitare i loro amici, andare in una festa, portare insomma la merendina, gli amichetti, eccetera. Quindi ci teniamo molto e ci tengo anch'io particolarmente nel programma di far vedere ai ragazzi delle ricette diciamo un po' diverse da come sono finora abituati. Sì, perché noi in realtà qua ti abbiamo convocato per parlare di cucina di base, perché pare che la notizia insomma sia un po' questa, l'ha rilanciata la Coldiretti, il pane, la pasta, la torta della nonna, poi naturalmente tu nel programma fai delle cose anche un po' più elaborate per incuriosire, eccetera. Ma prima di tutto ti voglio chiedere questa cosa qua, Spiros, cioè, sì, è una buona notizia, cioè il fatto che la gente si metta a cucinare fa bene? Meglio mangiare prodotti cucinati in casa, sempre che uno non sia un cane assoluto, rispetto ai prodotti industriali? Guarda, io direi che finalmente è una buona notizia e la gente sì, adesso vuole cucinare a casa, ha anche la voglia di fare insomma di sperimentarsi e mettersi ai fornelli, hanno tutti voglia di sapere quello che mangiano, ma sì, un po' la crisi, ma non solo la crisi. Bravo, hai detto una cosa giusta, la voglia anche di sapere cosa c'è nel piatto, cosa si mangia, quindi se uno se lo cucina meglio di così può essere, perché naturalmente lì l'informazione è massima. Si può fare cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Spiros, che condurrà a partire da, insomma, proprio in questi giorni il nuovo programma sul canale 610 di Sky, così, Dea Kids? Sì, esatto. Canale 601 di Akis. Scusa, 601. Sì. E il nuovo programma di cucina di Spiros, vincitore della prima edizione di MasterChef. Tra l'altro, insomma, uno straniero che viene a insegnare a cucinare agli italiani non è male. Ma perché sai, insomma, diciamo che è la cucina è cultura, quindi cioè, uno la coltiva, inizia sì, a avere il rapporto con la cucina e poi dopodiché diventa dipende dalla persona di come insomma sfrutta questa opportunità e ha voglia di coltivarla e portarla avanti. Tornando un po' anche al discorso della cucina di base, è di là che parte tutto, soprattutto anche nella cucina italiana. Cioè, bisogna conoscere molto bene le basi della cucina italiana per poter insomma sperimentarsi le altre cose che poi sì? Insomma, la cucina molto sana. Ecco, leggiamo qualche dato così giusto perché allora pare che c'è stato un taglio di spesa di un miliardo, poco più di un miliardo, per i prodotti confezionati, sempre dati della Coldiretti, e invece si registra una corsa agli acquisti degli ingredienti di base come farina, uova, zucchero, burro, i classici ingredienti in cui si cucinano tutte le cose. C'è stato 8% dell'aumento della farina, 6% delle uova, 4% del burro. Visto che sono tutti segni meno, in genere indicatori economici di vendita e consumi, le associazioni di commercianti non fanno altro che lamentarsi di questo. Quando vedi il segno più dici, beh, ma che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la gente appunto cucina. Spiros, tu cosa cucinate lì nel programma? C'è qualcosa che possiamo raccontare anche alla radio? Guarda, noi cuciniamo delle ricette, come ti ho detto prima, molto semplici, ma insomma con un po' di creatività, oppure dipende sempre anche dalla richiesta del bambino, del ragazzo. Io cerco sempre di soddisfare i loro gusti. Delle ricette ce ne sono un'infinità. Ma per esempio qualcosa che, ora a parte il programma, qualcosa che, non so, prepararsi un po' di cibo a casa da portare in ufficio, no? A Milano si dice la schiscetta, per una cosa che si può fare con pochi ingredienti a casa per il pranzo, per evitare di andare a mangiare il panino. Guarda, ormai andiamo, non lo so, anche verso l'estate, quindi diciamo che possiamo portare anche il riso che si mangia anche freddo con un pesto di mandorle, basilico e caperi, che quindi questo viene molto, diciamo, io ho voglia anche d'estate, quindi mi porto avanti, hai capito? Speriamo tutti che arrivi, un pesto molto semplice con le mandorle pelate, tutto a freddo, quindi lo possiamo portare anche in ufficio, è un primo, diciamo, completo, mandorle pelate, basilico, un po' d'aglio, caperi sotto sale, con un po' d'olio si frulla tutto insieme, si frulla piano perché le mandorle hanno olio dentro, quindi non lo deve buttare fuori. Una ricetta alternativa del pesto, qualcosa senza aglio per evitare di appestare il vicino d'ufficio? Non mettiamo l'aglio, lo evitiamo da soli. Qualcos'altro, Spiros, dai, già che siamo quasi all'ora di pranzo, un'altra ricettina? Un'altra ricettina molto molto veloce, perché tutti li vogliamo, diciamo, veloci, non lo so, che dobbiamo portare in ufficio? Magari qualcosa, visto che insomma parliamo anche di questo, no? di risparmiare e anche di mangiare sano, però siccome sappiamo siamo tutti di corsa. Guarda, io ti dico anche un'altra cosa, portando sempre verso l'estate. Sì. Che la mia idea era partita dalla cucina di base, che prosciutto e melone, no? Sì. Io avevo cambiato il prosciutto mettendo il branzino, quindi un branzino semplicemente fatto al forno, sfilettato e poi tagliato in melone fette molto sottili, condito con un po' d'olio. Quindi in alternativa del prosciutto e melone, che è il classico e il top, io volevo un po' giocare, quindi insomma anche questo si può portare in ufficio e poi non c'ha l'aglio, la cipolla, quindi anche i vicini non si lamentano. È un po' più laborioso da fare, ma insomma del resto la cucina 5 minuti. Per fare il branzino 5 minuti? Sì, lo puoi fare anche a vapore, 5 minuti è pronto. Il pesce è cotto appena, non è più crudo, cioè così mi hanno detto. Già, del resto si mangia anche crudo, vuol dire che lo si può mangiare anche. 5 minuti proprio è pronto, tagliare il melone altri 2 minuti, quindi piatto è fatto. Quanto tempo mediamente ci vuole per cucinare qualcosa? Diamo un messaggio così rassicurante, no? Perché poi uno ha anche sempre fretta per fare un buon piatto. Diciamo che insomma minimo un quarto d'ora, 20 minuti li dobbiamo dedicare in cucina. Poi tu sei veloce, quindi fai anche prima. Gli imbranati ci mettono come me sicuramente di più. Grazie Spiros intanto per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento in TV, il programma, ricordalo tu Spiros. Tutti i giorni alle 18:15 su Dea Kids canale 601. Benissimo, grazie intanto a Spiros per essere stato con noi, il primo vincitore di MasterChef Italia. Adesso con un suo programma su Dea Kids, come avete sentito. La notizia era questa, il boom del fai da te alimentare, almeno secondo i dati della Coldiretti. È posizionato come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse il tennista e fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe in me un po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende. Siamo felici di poter dare due buone notizie che riguardano la salute dei cittadini, due piccole notizie che riguardano la stessa città, Milano, è solo una coincidenza, anzi aspettiamo che voi ce ne segnaliate di notizie simili in tutta Italia, così è bello fare anche da gran cassa a queste cose qua. Si sa che per fare il medico ci vuole la passione, cinque donne a Brera, nel quartiere Brera, la passione ce l'hanno sicuramente, offrono un giorno alla settimana le loro cure gratis all'interno della farmacia del quartiere. Questa è una delle tante iniziative. L'altra invece è un pochino più strutturata, si chiama Medici per Tutti e ne parliamo con il direttore sanitario Tullio Gambardella. Buongiorno Tullio. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. L'iniziativa è sostanzialmente questa, cure anche specialistiche a chi ne ha bisogno da pagare in base al reddito, è così? Esattamente, sì. Esattamente. Come nasce questa cosa? È un'esperienza che è già partita oramai da diversi anni, siamo partiti nel 2011, verso fine del 2011, nell'ottobre del 2011, in base alle esigenze momentanee della crisi, speriamo momentanea, della crisi economica che sta attraversando il paese, abbiamo deciso di sensibilizzarci un po' tutti nell'ambito del centro e quindi abbiamo deciso di fare appunto due fasce economiche diciamo equiparate un po' al ticket del sistema sanitario nazionale, quindi diciamo chiamiamole a basso costo come prestazioni, sì, e cerchiamo un po' quanto? Di accontentare un po' tutti. Le prestazioni sono un po' tutte quelle specialistiche di base, quindi andiamo dall'otorino di cui me ne occupo io personalmente, sì, alla pediatria, alla fenologia, la ginecologia, la dermatologia, insomma cerchiamo di coprire un po' tutte e le quanto branche. E quanto costa una visita specialistica presso di voi? Questo noi abbiamo cercato di fare, in pratica abbiamo cercato di suddividere un po' anche in base al reddito della popolazione, per cui andiamo da una visita da 35 euro che è la visita specialistica normale, che è meno del costo sicuramente di quello che è una visita specialistica normalmente, ovviamente in base, vi dicevo, al reddito, per cui su un reddito su persona fisica che arriva fino a 23.000 euro oppure su un nucleo familiare che arriva fino a 45.000 euro applichiamo la tariffa di 35 euro, mentre invece per gli altri, quindi per quelli superiori a quella fascia, andiamo sui 50 euro. Ecco, ma sarebbe giusto secondo voi, penso di sì visto che lo fate, anche se è un progetto su base sociale, ma sarebbe giusto estendere questo concetto un po' più in generale anche nel sistema sanitario nazionale, cioè pagare sempre di più in base al reddito, magari anche con più di due fasce, diventa magari complicato, esatto. Però è giusto anche che chi più ha più contribuisca. Da un punto di vista pratico sì, è vero che stiamo parlando di salute, per cui effettivamente alla fine siamo un po' tutti uguali da quel punto di vista, però effettivamente una differenziazione di base va fatta, soprattutto dato il periodo, e visto che sappiamo che oramai ci sono famiglie che sentono ad arrivare anche a fine mese con lo stipendio normale, ovviamente sarebbe più che giusto, visto che la salute è un diritto, poter andare incontro un po' a tutti. E quindi effettivamente fare una differenziazione di questi momenti mi sembra d'obbligo. Anche a livello rilancio l'appello agli ascoltatori che ci stanno sentendo insomma inviarci, raccontarci storie come questa, che sicuramente insomma, anche se questa più strutturata, forse anche un po' più innovativa in Italia, ma altre come quella che abbiamo letto prima di Brera ce ne sono. Si può fare Radio 24 su Facebook, @ si può fare 24 su Twitter, io @ Ale Maurizi, perché è giusto far circolare anche queste notizie che sono anche poi delle possibilità per le persone. Chi sono gli utenti, Tullio, che vengono da voi, insomma persone anche normali, sì, anche che perché sentono della crisi. Sì, esattamente, perché noi tendiamo ad offrire sia un servizio da un punto di vista più possibilmente sociale, quindi ovviamente sulle fasce proprio meno ambienti della società, che possono essere anche dagli immigrati, dai senza tetto, da chiunque, ad arrivare a persone effettivamente in questo momento che sono in crisi, quindi anche famiglie normali in questo momento in crisi. Anche perché quello che vorrei poi specificare, che tutto sommato è un servizio che si può tranquillamente offrire, cioè nel senso che non è un servizio a basso costo perché la qualità sia scarsa, in realtà il centro è lo stesso, gli specialisti sono gli stessi che normalmente lavorano nel centro e che hanno sempre lavorato nel centro, per cui riusciamo ad offrire lo stesso identico tipo di servizio, quindi lo stesso tipo di visita anche ad un prezzo economicamente Sì, certo, non è che spendere meno equivale ad avere una prestazione inferiore, questo ci mancherebbe altro. Tullio Gambardella, direttore sanitario dei Medici per Tutti, all'orizzonte, e poi ci salutiamo, ho capito che c'è anche la possibilità di estendere questa cosa qua in altri posti d'Italia, siete stati contattati? Sì, esattamente, al momento ci sono già una decina di centri, non solo in Lombardia appunto, come dicevi, anche nel resto d'Italia, che hanno chiesto un'affiliazione al nostro servizio. Noi speriamo, ovviamente non siamo né egoisti né altro, speriamo che questo sia, noi siamo partiti, siamo stati il primo centro, speriamo che questo sia da stimolo, da incentivo un po' per tutti. E staremo una a vedere. Cosa che è fattibile e che effettivamente noi la facciamo, oramai sono 2 anni, siamo arrivati quasi a 3.000 assistiti, spero che riusciamo ad estendere un po' in tutti i lati. Complimenti e grazie per quello che fate. Il sito per dare un'occhiata a medicipertutti.it. Grazie, esatto. Tullio Gambardella, direttore grazie sanitario, per essere stato con noi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La settimana scorsa avevamo parlato di una stabilimento, una fabbrica in Abruzzo salvata da un manager che di fronte all'abbandono della multinazionale americana aveva detto, ha detto e l'ha fatto, me la compro io la fabbrica, e così ha rilevato l'azienda con un socio tedesco. Questa volta una notizia viene dalle porte di Milano, dove la ex Maflov in via di fallimento viene ripresa per i capelli dai dipendenti. Come? Lo chiediamo a Michele Morini, buongiorno. Buongiorno. Un ex impiegato dell'azienda Maflov, che produceva, parlo al passato a questo punto, climatizzatori per auto, è così? Sì, esatto, costruivamo componenti per l'impianto di climatizzazione di qualsiasi veicolo, sì, dalla Ferrari al Pullman per intenderci, e soprattutto tubazioni, ecco, e avevamo clienti prestigiosi in tutto il mondo, c'era dalla produzione di serie, ma c'era anche prototipia, ricerca e sviluppo, quindi tutte le fasi dall'ideazione alla produzione di serie di un prodotto. Quanti dipendenti? Ma si è arrivati nel 1999 a essere anche 800. Mm-hmm. Diciamo che poco prima che ci fosse il fallimento, il crack, eravamo 330 circa. Quindi c'era già stata una diminuzione, però parliamo sempre di più di 300 persone. Poi è successo quanto tempo fa? Qualche mese fa? Qualche mese fa la fine di Maflo ha avuto un po'... Un percorso un po' lungo. Diciamo che l'ultimo, sì? L'ultimo pezzo di Maflo, l'ultimo residuo, noi diciamo, se n'è andato con la fine dell'anno, i primi mesi di quest'anno. Sì. L'area industriale, il sito industriale, sapevamo sarebbe rimasto vuoto. Sono 30.000 metri quadrati, 4 capannoni di 15.000 metri quadrati coperti, solo che cominciano a essere vecchi, sarebbero da sistemare. Quindi per la crisi nessuna azienda c'è che vuole andare lì, anche se ci fosse, forse non converrebbe perché è appunto da sistemare. Noi che dopo anni di ricerche infruttuose, perché certi sono in cassa integrazione dal 2010, sì, dopo anni di ricerche infruttuose di lavoro abbiamo detto vabbè, proviamo a inventarcelo noi il lavoro, proviamo a unirci, pensare a qualcosa, infatti abbiamo pensato a qualcosa, però ci serviva un posto, abbiamo detto perché non tornare da dove tutto è iniziato. Tra l'altro qualcuno ha fatto il paragone con la Fabricas Recuperadas, esatto, in Argentina, dove dopo il default, quando tutto è saltato per aria in un breve periodo di tempo, cioè in maniera accelerata, invece da noi sta succedendo magari non con la stessa intensità, però è più diluito nel tempo, però sta accadendo qua e là che ci siano pezzi di economia, fabbriche, interi settori che stanno purtroppo, insomma, saltando e segnando il passo. Operai, ex dipendenti che hanno ripreso in mano la produzione, hanno ripreso in mano lo stabilimento, quelle che erano le scorte, hanno cercato di trovare gli sbocchi di mercato e di fare loro quello che l'azienda non era più riuscita a fare. È un po' il progetto che in qualche modo avete, non dico in testa, ma insomma in cuore, forse anche voi? Beh, sì, noi non possiamo continuare a fare la stessa cosa che faceva Maflo. Perché innanzitutto tutte, diciamo che nell'ultima fase della crisi l'azienda è stata acquistata da un imprenditore polacco, Borizev, che però è andato avanti con pochissimi dipendenti perché ormai il lavoro non c'era più, e siccome fra gli stabilimenti Maflo non c'era solo lo stabilimento di Trezzano ma anche quello polacco, era quello a cui mirava esattamente questo che ha acquistato, e quindi cosa ha fatto? Prima di chiudere definitivamente Trezzano ha portato tutte le macchine, i macchinari, le attrezzature nello stabilimento Maflo di Trezzano, che invece continua a lavorare e che si è ripreso le commesse anche di BMW, che BMW ci aveva ridato anche per la nostra lotta, e le ha dirottate appunto in Polonia, quindi si è preso macchine, clienti, commesse. E quindi noi lì avevamo solo il posto, abbiamo però un'altra idea, cioè innanzitutto pensavamo a qualcosa che facesse bene al pianeta, perché ormai anche lui un po' al limite, facesse bene a noi in quanto ci permettesse di lavorare, fosse una cosa buona, e quindi abbiamo pensato al recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione anche di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per intenderci dal phone al computer. Cioè tutte quelle apparecchiature, insomma, che sono rimaste nella fabbrica inutilizzate e che nel giro di qualche tempo potrebbero diventare archeologia industriale, insomma materiale per le discariche. Nella fabbrica non è rimasto più niente purtroppo, sì. Però la gente quando ha saputo di noi, soprattutto nel paese lì a Trezzano, dove la nostra storia è molto famosa, la gente ha cominciato ad arrivare, a fermarsi ai cancelli, a dire abbiamo saputo di voi, vi abbiamo visto in tele, alla radio, e ci portano i loro elettrodomestici, computer rotti, per solidarietà, ma anche perché sono contenti che in qualche modo la Maflo, appunto con Rimaflo, si sta rialzando, e ci ringraziano anche perché forse stiamo mostrando che c'è ancora una speranza, che non è tutto finito, che si può trovare un'alternativa. Cioè, invece di stare lì a casa, a piangersi addosso, con le mani in mano, avete pensato di usare questo spazio per fare, partendo da questa attività, cioè del recupero, no? Esatto. Che questo sicuramente sì, è un possibile mestiere, è un lavoro, ci sono delle fabbriche sicuramente, forse non molte in Italia. Tempo fa avevamo sentito, magari può essere interessante anche passarvi questo contatto, la fabbrica si chiama Dismeco, dalle porte di Bologna a Marzabotto, e si occupano proprio di smantellare completamente gli elettrodomestici utilizzati, anche grossi, con una percentuale di raccolta differenziata fino al 95-98%, quindi un livello altissimo, per cui sicuramente ci sarebbe un mercato per fare questo. Quindi a questo punto voi state cercando di sperimentarvi in questo modo. Naturalmente i ricavi come vanno di questa cosa qua? Diciamo che noi siamo le persone, appunto, sono ex lavoratori MAP, sì, godono quindi ancora degli ammortizzatori sociali previsti, appunto, e quindi noi stiamo anche facendo un lavoro in prospettiva, nel senso che noi non abbiamo l'urgenza di arrivare a fine mese, diciamo, perché abbiamo un minimo di supporto datoci dagli ammortizzatori sociali, quindi stiamo anche lavorando in prospettiva, magari ritardando anche un po' i tempi per fare in modo di fare le cose bene, perché adesso inevitabilmente non abbiamo ancora un lavoro costante, ben determinato, ben classificato, che possa portare un reddito, però stiamo tutti intessendo una serie di trame che dovrebbero portarci anche nel breve, pian pianino, ad avere sempre più lavoro. Quante persone siete coinvolte attualmente in questa attività, in questo progetto, in questo cammino? Il discorso è un po' complicato perché anche per una questione di opportunità, visto che abbiamo tutti gli ammortizzatori sociali, è vero che noi abbiamo costituito una cooperativa, appunto, Rimafro. È vero che e quanti siete in questa cooperativa? In questa cooperativa sui libri ora siamo 17, ma di fatto che lavorano a questa cosa quotidianamente siamo intorno ai 20-25. Ah, benissimo, quindi un nucleo che sta trascinando anche altre persone. Ma una curiosità, ma la proprietà dei muri, insomma, non dice niente? Sa, è d'accordo, cosa succede? La proprietà è un'azienda che fa capo a Unicredit e c'è questo discorso che la proprietà medesima sa che quel posto non lo vuole nessuno, parliamoci chiaro, primo per la crisi per cui non ci sono proprio aziende che hanno bisogno di un posto dove lavorare. Quindi, insomma, al momento non si è fatto sentire nessuno rivendicando lo spazio. No, al momento noi abbiamo spazio. Subito cercato un accordo, ovviamente senza sborsare delle cifre. E c'è stato detto che se non possiamo parlare di soldi non sono interessati a nessun accordo. Noi abbiamo fatto capire che però non per questo ce ne saremmo andati e loro hanno detto va bene, fate come volete. Insomma, per il momento si vivacchia su questo fronte qua. Esatto, Michele, sì. Non so se vuoi fare un appello, visto che abbiamo ancora 30 secondi, un minuto prima di chiudere, se avete bisogno di qualcosa per portare avanti questo progetto, che comunque da parte vostra è un'iniziativa, insomma, lodevole. Ripeto, purtroppo queste crisi ci sono gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione finché dura, molte persone se ne stanno a casa, voi invece avete deciso di provare a fare qualcosa che potrebbe anche avere un mercato, lo ripetiamo, perché il recupero, insomma, degli elettrodomestici per incentivare la raccolta differenziata poi delle singole parti è una cosa di cui sicuramente c'è bisogno. Vi serve qualcosa, qualcuno? Volete stabilire qualche contatto? Io più che un appello per cose pratiche farei un appello per un atteggiamento da tenere un po' tutti. Noi innanzitutto vorremmo essere un esempio, vorremmo che molti ci imitino e poi noi diciamo sempre che questa non è solo una crisi economica, questo è il sistema che è crollato, quindi ora è necessario, è indispensabile riscrivere in tutto e in parte questo sistema, quindi non tiriamoci indietro, entriamo in azione, entriamo in scena da protagonisti e dettiamo anche noi certe regole che saranno del nuovo sistema. Se ce ne stiamo fuori saranno sempre i soliti a riscriverle, magari le travestiranno da idee nuove, ma saranno le sempre solite idee vecchie. Ma a parte questo piccolo, diciamo, messaggio alla nazione, come ti vedi tu tra un anno? Ti vedi ancora impegnato in questo progetto? Pensi che possa avere un futuro questo progetto? E se sì, che cosa vi serve però per decollare? Oppure state anche un po' vivacchiando? Inevitabilmente tutti gli aiuti sono ben accetti, è ovvio che abbiamo bisogno di tutto. Ovviamente un appello generico può essere contattateci, discutiamo di questa cosa, cerchiamo di capire noi come possiamo aiutare voi come potete aiutare noi. E perché è molto difficile in una situazione così ancora da definire, trovare, diciamo, un bisogno così chiaro. Va bene, insomma, questo molto... è quello che accade adesso alla Rimafro a Trezzano sul Naviglio. Grazie a Michele Morini per essere stato con noi, per averci raccontato questa storia, insomma, di resistenza e che però, chissà, potrebbe avere un futuro. Intanto vi consente a voi di vivere il presente in una maniera, insomma, meno pessimistica forse anche, no? Meno richiusa in sé, come invece purtroppo tante crisi aziendali tante volte provocano. Grazie per essere stato con noi. E la bobina continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare. La base non si può suonare, non si può sbagliare, perché ci vuole orecchio, bisogna avere Ritroviamo la nostra Camilla. Ciao Camilla Masala, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno, buongiorno a tutti. L'avevamo lasciata sabato scorso in sospeso con delle notizie che ci interessavano, eh? Camilla Masala, fondatrice di Pupulito.com, la lavanderia per pannolini di stoffa, una cosa. Come vanno gli affari, tra l'altro? Bene, il mercato bene, della cacca in è in crescita. Sei in crescita, va bene, insomma, per chi è della zona, Novara, ma anche altrove, fate questa cosa qua, dei pannolini ecologici, se volete, perché insomma è un modo per risparmiare tanta plastica, Certo. E per far contenta anche Camilla. Ci eravamo lasciati su questa notizia degli orti urbani. Noi siamo partiti, Camilla, invece oggi dal boom del fai da te alimentare in cucina degli italiani. Quindi, insomma, per cucinare ci vogliono gli ingredienti. Gli ingredienti andiamo a procurarceli negli orti. Sì, soprattutto se l'orto te lo puoi coltivare tu, nel senso che c'è un dato di Coldiretti che dimostra che comunque ci sono più di 1 milione di metri cubi di verde urbano che sono destinati a, ad orti, ma cioè, non mi sto riferendo ad orti abusivi, nel senso ad esempio lungo le massicciate ferroviarie, ma sono orti che sono dati in comodato d'uso, soprattutto dai comuni, ai cittadini. E pensa te quanto possono far risparmiare questo 1 milione di metri quadrati, possono aiutare anche della gente magari in pensione o che non ha un'attività a ritagliarsi uno spazio per fare delle cose utili che fanno bene anche, insomma, anche al terreno, fanno bene. Non c'è una controindicazione rispetto a questa cosa qua, no? È tutto positivo. No, anzi, perché fa bene allo spirito, fa bene al cuore. No, sarebbe interessante chiedere, cioè, chiedere se qualcuno ha da segnalare delle situazioni di questo tipo, quindi il comune sì. Che affida orti urbani a cittadini, ma che siano piccole famiglie, cioè giovani coppie, perché di solito il comune affida sempre a pensionati. È vero, c'è questa abitudine. Noi avevamo segnalato una volta, non ricordo quale comune fosse del nord, dove lo davano proprio ai precari e ai disoccupati, ed era una politica, insomma, specifica di quel comune. Questo è vero. C'è un posto, però, tu hai scovato, dove c'è il più grande serie di appezzamenti. Dov'è? Sì, appena fuori di Torino, nel comune di Venaria, si sta insediando da poco il più grande insediamento di lotti destinati a orti urbani. Saranno circa 650 lotti di 90 metri quadri l'uno, quindi si sta parlando comunque di orti di una certa dimensione, che quindi possono fare... possono aiutare anche singole famiglie ad essere autosufficienti. Beh, insomma, può sembrare poco, però chi ha un minimo di praticità, insomma, con la campagna e con la terra sa che 100 metri non sono pochi, sfido sono a tenerli, starci dietro da soli e anche a consumare tutto quello che si produce, perché poi c'è il periodo dei carciofi, da mangiare solo carciofi, il periodo delle zucchine, solo zucchine, e d'altra parte va così con le cose di stagione. L'altra cosa che avevi trovato invece era un progetto che ha a che fare con la tecnologia. Sì, presentata, in realtà questo progetto esiste da un paio di anni, ma è stato, diciamo, andato un po' in auge con lo scorso SMAU, sempre di Torino. Esiste una piattaforma sociale che si chiama Grow the Planet, che è una sorta di social network che aiuta i singoli coltivatori a coltivare il piccolo pezzo di campo, ma può essere anche la fioriera e il vaso sul proprio balcone. C'è un'applicazione scaricabile su smartphone, c'è una piattaforma web dove è possibile quindi scaricarsi tutti i consigli, condividere un diario e tenere un diario delle proprie coltivazioni e soprattutto condividere consigli con gli altri membri del gruppo. Io ho un amico che c'ha la terra, però non usa lo smartphone. Come devo fare per convincerlo a condividere i suoi segreti e il suo diario così? Insomma, perché sono due cose un po' diverse come mondi, però si trova il modo di sposarle. Certo. Per chi invece magari ha un'esigenza più pratica, nel senso ha bisogno di imparare anche in aula con un insegnante vero e proprio, segnalo un'iniziativa dell'Università di Bologna che sta chiudendo adesso, più del 27 maggio, le iscrizioni per un corso proprio di formazione indirizzato a progettisti e gestori proprio di orti urbani. No, aspetta un attimo, progettisti, perché io ho detto che 100 metri non sono pochi, però cosa devi progettare in un orto, voglio dire? No, c'è qualcosa da progettare evidentemente, ti sei informata? Certo. Quali sono i corsi qua che tengono? Allora, questo è proprio un corso, in realtà questo è un corso mirato a chi poi dovrà gestire lotti, nel senso, quindi nel caso ad esempio di Venaria, in cui naturalmente devono convivere più privati, sì, e sì, sì. Ci vuole un minimo di infrastruttura, insomma, ecco, questo sì. E un po' di gestione soprattutto. Oh, sempre a Bologna le fanno queste cose qua, tutte queste cose. L'altra volta all'Università della Bicicletta avevamo trovato a Bologna, se le inventano di tutti i colori pur di andare a lavorare, no, scherzo. Grazie Camilla Masala per essere stata con noi, per averci insomma aperto anche a questo mondo, gli orti. Tu come vai con l'orto? Ne hai uno? Io ho una bella vasca sul terrazzo, bella piena di piantine di pomodoro che adesso sto condividendo con tutti, perché anche li ho seminato e con quest'acqua sono spuntate una marea di piantine di pomodoro. Brava, io invece so solo il basilico e il rosmarino, quelle cose tristi sul davanzale di casa. Ma non è triste. L'importante è averci il pensiero. Grazie Camilla per essere stata con noi. Grazie a voi, buona domenica. E ci fermiamo qua per la puntata di oggi di Si può fare. Io ringrazio Franco Piantanelli, redazione, Andrea Piana, che ha scritto con me il programma, Roberto Scaltritti in regia. Me mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Ci risentiamo sabato prossimo. Buona giornata. Si può fare. Cronache da un paese migliore.